miei assoluti. M'hai fatto come fanno tutti, io ballo coi lupi. Quelli come me son come il fuoco di candelabre, vicino a pochi, quanto la poca luce che filtra nelle cattedrali. Molto resta distante, tipo antenati. Pochi vedono un legame sacro, più saldo un quadro di burri. Questo vento freddo renderà cieli più azzurri. Lei non vuole salvare il mondo, ma una vita sola. Non basta il Villanova, si apre solo coi mostri, tipo Dylan Dog, un Ivanov. Spezza il cuore solo a chi si innamora. Restano lampadari, è il motivo per cui sentono tutti ciò che non vede nessuno, come campanari. Che per lasciar fuori i vestiti carcani non basta un attaccapanni. Vede sempre che il bello sta nascosto come armamentari. Che la luce è passeggera, un fiore bianco Wyoming che diventa giallo Nairobi. Abbraccia l'ombra e si scontra con l'ego, tipo folla contro uomo, tipo sole d'ironi. Il cielo è per chi vede dove non ha gli occhi. Mi trovi dove non guarda la luna, ed è un sorriso su una faccia cupa. Ciò che acceca sono le luci, se cerchi calore tu entri nel fuoco e ti bruci. Mi trovi dove non guarda la luna, ed è un sorriso su una faccia cupa. Ciò che acceca sono le luci, se cerchi calore tu entri nel fuoco e ti bruci.